Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. All'inizio è solo un. Un piccolo riff di chitarra per introdurre la storia di un amico meccanico, con le mani sporche di olio e basta così. Chiuso il cofano, chiusa la faccenda. E invece no, perché quel paraparapà scappa dal motore, scivola fuori dal tubo di scappamento e si diffonde nell'atmosfera, nelle orecchie, nella fantasia e diventa un pirata, un robot, un UFO. Anzi, un UFO robot. La soglia degli anni Ottanta è una bocca spalancata sul mondo. I giovani ingoiano l'America di Rambo, Rocky e Reagan. I bambini fissano la televisione e scoprono che è una finestra che punta ad est, al paese del Sol Levante, al Giappone, il regno dei cartoni animati. Il romanzo più breve del mondo contiene solo 6 parole. Vendesi scarpe da bambino mai usate. Ma Polaroid può fare di più. Raccontare 7 storie con un paraparapà. Allacciate le cinture e ricalcatevi i bordi. Comincia il viaggio nei ricordi animati che iniziano tutti così. Polaroid. Istantanee di storia della musica. Studi Rai, Roma. È in corso una conferenza stampa sui nuovi palinsesti. Il comico Dario Fo, che un giorno riceverà il Nobel, si alza in piedi e dichiara: questo personaggio è l'angelo sterminatore, il vendicatore che si sacrifica per l'uomo della strada. È un terrorista e non deve essere mostrato ai nostri figli. Gli fa eco il romanziere Alberto Bevilacqua. Pugno rotante, alabarda spaziale e maglio perforante sono armi da squadrista fascista, da killer. Questo cartone animato è lo stadio prima della droga. Segue applauso unanime di giornalisti e funzionari. Per ultimo prende la parola lo scrittore di libri per l'infanzia Gianni Rodari e dice: parlerò io di questo Ercole moderno, metà uomo e metà macchina. Scriverò io la sigla della sua epopea. Mangerà libri di cibernetica. Giocherà su Marte e i bambini capiranno quello che voi, adulti senza più sogni né fantasia, ancora non vedete. Meglio un cuore di latta che un cervello di sabbia. E aveva ragione lui. Su Marte. con Polaroid si torna bambini. Il crononauta viaggia nel mondo onirico delle sigle dei cartoni animati. Sorvola l'Asia intera, approda in Giappone e incontra un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Cuore e acciaio, Gig Robot. Con il ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu, corri in aiuto di tutta la gente. Tempo fa, in una galassia lontana lontana, un giovane di umili origini sta riparando il suo veicolo da corsa. I motori sono la sua passione e vuole diventare un pilota. Ma l'incontro con un anziano misterioso è destinato a cambiare la sua esistenza. Il giovane scopre di avere dei poteri e di essere destinato a combattere il male. Il nemico è feroce, potente, e dal comando della sua armata di cloni c'è un personaggio crudele e sinistro. Un essere metà uomo e metà macchina. Un tempo buono e generoso che l'oscurità ha corroso e trasformato in un malvagio senza scrupoli. E quell'essere è suo padre. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Sbagliato. Il ragazzo non è Luke Skywalker e la musica non è di John Williams. È dei Micronauti. 2002, Tokyo. Nell'elegante quartiere di Shibuya passeggiano Thomas e Guy, godendosi il paradosso del loro successo. A volto scoperto, nessuno può riconoscerli, perché solo con il casco loro sono i Daft Punk. È passato più di un anno da quando hanno chiesto di incontrare il disegnatore Leiki Matsumoto e oggi, finalmente, il giorno è arrivato. Thomas e Guy devono fargli ascoltare il loro nuovo album Discovery e devono proporgli una collaborazione per un film musicale, Interstellar 5555. Ma soprattutto vogliono dirgli grazie. Grazie, maestro. Perché grazie alle avventure del suo pirata, con il volto sfregiato e la benda sull'occhio, che i due ragazzi si sono incontrati. I Daft Punk sono figli di Capitan Harlock. Di storia della musica. Il prossimo scatto di Polaroid è un ponte tra il Giappone e l'Italia. Un ponte che porta un giovane orfano ad allenarsi sulle Alpi per diventare un combattente impavido. La sua maschera fa paura, ma ha in fondo un grande cuore e combatte solo per la libertà. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa. Chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre. grande la bontà, ma col nemico non ha pietà. Tutti sanno che è invincibile, lui sul ring è formidabile, nella lotta è temibile il tigre. Piano, poi con sorpresa sale tutti il tigre. Tigre. Tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità. Non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere lui sa. Istantanee di storia della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi a Polaroid parliamo delle sigle dei cartoni animati, le colonne sonore dei pomeriggi passati incollati alla TV a scoprire le nuove avventure dei nostri eroi a due dimensioni, aspettando solo di sentire questo. Avviare i motori! Motori alfa avviati. Struttura controllata. Grande Mazinga pronto al decollo. Bray Condor pronto al decollo. Iniziare il volo di prova. Bray Condor, fuori! Fuori! Fuori. Sim. 21 secolo. La Terra sta morendo. Le restano solo 3 anni di vita. Le emissioni di anidride carbonica soffocano le forme di vita. I raggi del sole provocano tumori alla pelle. Mari e fiumi sono devastati da plastica e idrocarburi. Il mondo è governato da potenti lobby finanziarie che negano il disastro ambientale in nome del profitto e di una vita agiata per pochi miliardari. Mentre sul pianeta milioni di poveri, rifugiati, sbandati si spostano in massa in cerca di cibo, riparo, pace. L'intera umanità è aggrappata ad una sola speranza: trovare un nuovo pianeta su cui ricominciare. Questo è il futuro visto dal 1975. Questa è la Terra immaginata dai creatori di Tekkaman. Ma è solo fantascienza, no? Fermatevi un attimo, concentratevi e provate a far riaffiorare una memoria sonora. Sul divano o sul tappeto a gambe incrociate. Dopo la merenda, ma prima dei sofferti compiti. E la fantasia che si libera quando parte questa. Contro i mostri lanciati. sempre in cinque: un leader carismatico e intelligente, un tizio taciturno e misantropo con un occhio coperto dal ciuffo, una bella figa timorata e materna, un ciccione impacciato e stupido, un bambino rachitico e esperto di computer. Indossano sempre un colore che li distingue, come fantini del Palio di Siena. Sono un gruppo stereotipato, un elemento ricorrente, un cliché. Li metti su una macchina da corsa e diventano il Gattiger. Li vesti da uccelli e si trasformano nella famosa squadra G. Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme, allarme. La battaglia di G, spacca spazio a tutti i G. Cinque incredibili ragazzi fanno forte o differenza. Alle ali con uccelli sono liberi e liberi. La famosa squadra G, cinque eroi uniti qui. Ehi, l'Aquila, John, il Cocco, Fredite, il Cigno, Gigi, la Rondine, Ryu, il Gufo. Pianeta Terra chiede aiuto! Ora schizza la tua nave, esci di fuoco contro i mali, ma la cosa più eccitante è un robot del comandante. La battaglia dei pericoli si fa dura per gli alieni, finché c'è la squadra G, cinque eroi uniti qui. Cina, distretto di Yangzhou. Il monaco Sanzang deve compiere una missione. il grande Bodhisattva Guan Yin, il Buddha compassionevole, lo ha inviato al di là del Tibet, in India, alla ricerca dei sutra smarriti, i saggi testi che salveranno l'anima dell'uomo. Lo accompagneranno tre discepoli: il re scimmia, il maiale dalle 8 proibizioni divine e il demone del fiume che conosce la purezza della sabbia. Insieme combatteranno mostri e spiriti, strappando l'anima dai loro artigli e cavalcando il principe drago del mare del sud. Chissà se l'autore di questo romanzo, di cui nessuno ha tramandato il nome, avrebbe mai immaginato che a distanza di 500 anni qualcuno avrebbe raccontato la sua storia, ambientandola nello spazio, 1000 anni dopo la sua. Della musica si ferma e torna tra poco, solo su Radio 105. Polaroid. Voglio vederti danzare. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's hard to control. Your body to dance. Istantanee di storia della musica. Oggi sfogliamo l'album con le immagini dai bordi neri spessi. Sono quelle dei personaggi dei cartoni animati. Scatto dopo scatto, puntata dopo puntata, riascoltiamo le nostre sigle preferite. C'era una volta una città in quell'isola laggiù. C'era una via che passava di là, proprio dove vivi tu. C'era allegria, c'era felicità, ma la guerra è una follia. Ma se qualcuno sorride a te, un domani ancora c'è. Tanto amore più che puoi. Dai Conan, ora emozioni come sei tu da vicino a te che ti fa sentire un re. Ci sono i sogni, tutti quelli che fai, che non moriranno mai. C'è la speranza che d'ora in poi un futuro avremo noi. Dai Cona, sulla terra c'è ancora il sole. Dai Cona, tenero come un fiore, crescerai. Dai Cona, questo mondo si Polaroid, istantanee di storia della musica. Oggi a Polaroid parliamo delle sigle dei cartoni animati. Sistema solare. Luna, satellite della Terra. Sono passati 10 anni da quando Curtis è rimasto orfano. Il padre e la madre, entrambi ricercatori, sono stati assassinati da uno scienziato criminale. Ma Curtis non è solo. A prendersi cura di lui ci sono Greg, il robot intelligente, Otto, un androide mutaforma, e il cervello di un collega del padre, Simon, tenuto in vita da una avveniristica scatola meccanica. Grazie al loro amore e al loro sostegno, Curtis è cresciuto forte e intelligente e un giorno metterà tutto quello che ha imparato al servizio della pace e della giustizia. Un giorno Curtis sarà Capitan Futuro. Capitan Futuro tra le stelle schizzerà. Capitan Non ci sono supereroi nel nostro tempo. Non ci sono robot combattenti, astronavi spaziali, mostri marziani e minacce androidi. Ma il nostro pianeta non è al sicuro, è in pericolo, ogni giorno sempre di più, perché lo minaccia un nemico incosciente, invisibile e subdolo. L'uomo, la sua ignoranza, la sua avidità. E contro questo nemico, se non facciamo qualcosa, non ci sarà Goldrake che tenga. La Terra vive, pulsa, gira. Puoi fermarla solo un attimo. Puoi fermarla solo un attimo. In uno scatto di Polaroid. Goldrake! Polaroid è una produzione Zodi 105. Ideato da Wender e Fabio Lisei. Voce Lucilla. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.